La gente mi segue, vuole sapere se scrivo questa roba supersonica da me. Solo perché fumo la ganja, fumo la ganja, fumo la ganja che mi fa. Polizia mi segue, convinto che io sia quello degli articolo 31 con Maria. Solo perché fumo la ganja, fumo la ganja, fumo la ganja che mi fa. Come corona senza fama, senza rap, io sto male. Sto appoggiato al davanzale mentre penso ad avanzare. Tipo truppe, vedo troppe hip hop toppe, ragazzine smandroppe. Io col rap faccio il popper. La FIBR ha rimedi serie A in serietà, in segretezza. Come i servizi, seguo gli indizi. Mille vizi nel paese dei pizzi. Ci guardano tutti come quando appizzi. La gente cambia in fretta, cambia chi non ci si aspetta. Cambia tipo Romeo travestito da Giulietta. Nello spettacolo regista, registra col nome mentre salvo l'immagine, scambio le pagine. Rispondo alle domande insicuro, sì no. Scatta la sinossi, qua tra i fatti nostri. Mostri, in questo paese non si incastra. La gente è normale con una troia, al contrario la casta. Se fossi in te, amico, ci penserei. Qui finisci depresso come allo zoo uno scimpanzé. Faccio rime stupide, ma quando arriva il nocciolo della questione mi dai ragione. La gente mi segue, vuole sapere se scrivo questa roba supersonica da me. Solo perché fumo la ganja, fumo la ganja, fumo la ganja che mi fa. Polizia mi segue, convinto che io sia quello degli articolo 31 con Maria. Solo perché fumo la ganja, fumo la ganja, fumo la ganja che mi fa. Ho sognato di condurre Striscia la notizia con Noemi Letizia, fatta a pezzi in una borsa di crizia. Fossi una donna ero Patrizia, escordavo il culo per un post in TV o un pezzo di pizza. Pezzi di cazzi frullati in camera di Brenda, mica Beverly Hills, Victoria Secret, agenda. L'agenda, l'agenda, l'agenda, leggenda. Come chi filma due donne che si fanno a vicenda. Arriva il tipo che mi chiede cosa faccio in sta faccenda. Come se fossi il pirla che fa biri biri biri e la gente si incendia. Oh mamma, stasera escort, anagramma di sterco, stiamo tranquilli? UBL. Questa canzone mi ricorda qualcosa, forse Guccini. La Bertè l'ho vista Villa Certosa, tra palloncini rosa, giri e ghiri, ghiri, ghiri, ghiri, ghiri, ghiri. Questa gente che si fa tre tiri e poi ritorna con tre tapiri. La musica non dice più niente, è una strategia che tranquillizza la gente. Ci sono addirittura delle parole che non puoi dire, tu le usi anche se non le vuoi sentire. La gente mi segue, vuole sapere se scrivo questa roba supersonica da me. Solo perché fumo la ganja, fumo la ganja, fumo la ganja che mi fa. Polizia mi segue, convinto che io sia quello degli articolo 31 con Maria. Solo perché fumo la ganja, fumo la ganja, fumo la ganja che mi fa. Ti piace Fibra? Prima mi piaceva, adesso mi piace un po' di meno. Perché? Sei diventato commerciale. Che commerciale? In che senso? Perché sei diventato più del pubblico, della gente comune. Prima eri solo dei rapper. Tipo quando? Parliamo del 2001-2002, okay. Quando facevi ancora turbe giovanili, quelle canzoni lì. E mille simpatia. E mille simpatia soprattutto. E adesso ti fa cagare? No, cagare no, le musiche sono belle, ma non sono più come un tempo. Ma le musiche o i testi? Di più i testi che le musiche. I testi. Ma l'ultimo l'hai sentito? No, l'ultimo no. Potremmo perché compralo. Adesso devo comprarlo. Vabbè, aspettiamo. Fa paura.